617. Croccante. Mandorle dolci grammi 120. Zucchero in polvere grammi 100. Sbucciate le mandorle, distaccatene i lobi, cioè le due parti nelle quali sono naturalmente congiunte, e tagliate ognuno dei lobi in filetti o per il lungo o per traverso, come più vi piace. Ponete queste mandorle così tagliate al fuoco ed asciugatele fino al punto di far loro prendere il colore gialliccio, senza però arrostirle. Frattanto ponete lo zucchero al fuoco in una casseruola, possibilmente non istagnata, e quando sarà perfettamente liquefatto, versatevi entro le mandorle ben calde e mescolate. Qui avvertite di gettare una palettata di cenere sulle braci, onde il croccante non vi prenda l'amaro passando di cottura, e il punto preciso della quale si conosce dal color cannella che acquista il croccante. Allora versatelo un poco per volta in uno stampo qualunque, unto prima con burro o d'olio, e pigiandolo con un limone contro le pareti, distendetelo sottile quanto più potete. Sformatelo di accio e, se ciò vi riuscisse difficile, immergete lo stampo nell'acqua bollente. Si usa anche seccare le mandorle al sole, tritarle fini con la lunetta, unendovi un pezzo di burro quando sono nello zucchero.